fede, ogni ragion del sangue e dell'amore. Se tu per lei pugnasti, di regina crudele, luce peggiore. Pugnai per Berenice, pria di vedere Selinda. Or che Selinda io vidi, Berenice aborrisco. Odio la mia vittoria, detesto il mio valore.